davanti alla mia gente. Mi guardò poi, senza indugiare, abbassò lo sguardo sulla sabbia che calpestava. E come il nostro te, questa è la rossa sabbia del campo di Darla, intrisa delle lacrime, del sangue dei bambini. Il nostro amore